Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, venerdì prima di Pasqua. Da sempre questo è il giorno dell'anno dove per le culture di tradizione e formazione cattolica la parola sacrificio, la parola rinuncia è la parola chiave. Quando eravamo bambini, se vi ricordate, questo si traduceva nel termine di fioretti, che tra l'altro adesso mi sembrano un po' meno di moda. Potremmo poi declinare il tutto nel termine di penitenza, ma io vorrei esplorare insieme a voi quella zona particolare fatta di piccole rinunce, fioretti quotidiani che possiamo scegliere di fare o di non fare nel corso della nostra giornata, della nostra vita, e che hanno una ricaduta diretta o indiretta sul nostro benessere e sulla nostra salute. Un bicchierino di meno, il pacchetto delle sigarette lasciato a casa, il cellulare tenuto spento per una parte della giornata, magari anche per tutto il giorno. Ci avete mai pensato che scegliere di rinunciare a qualcosa al quale siamo abituati potrebbe nascondere anche un vantaggio per noi, per la nostra salute, per il nostro benessere? Ma anche, oltre che a scegliere di non fare, si potrebbe anche scegliere di fare qualcosa. Allora scrivetemi, chiamatemi per raccontare il fioretto, chiamiamolo così, che vorreste fare, anche che state facendo, o ancora qual è il fioretto che facevate da bambini e che ricordate ancora con tenerezza, o al contrario magari con fatica, con grande fatica. 800 24 00 24. Intanto saluto Don Mazzi, che è in linea con noi. Buongiorno. Ciao Don Mazzi. Buongiorno a tutti. Don Mazzi, tu sei in viaggio? Tu sei un uomo sì, che fa... Sono in treno. Sì. Tu sei in treno, ma noi ti raggiungiamo ovunque. Sì. Senti, Don Mazzi, questi fioretti, queste rinunce, oggi è un giorno molto particolare, no? Sì, oggi per sé, per i cattolici, vorrebbe essere il vero giorno di penitenza. Di digiuno e penitenza per i cattolici. Per i cattolici, insomma, potrebbe anche essere uno dei tanti modi educativi per insegnare a ciascuno di noi, grandi per un verso e piccoli per un altro, che c'è bisogno di tanto in tanto darci delle regole e forse anche a cavarsi alcuni capricci, perché devo dire che questa società di consumi è poco educativa, ci garantisce tutti i capricci e ci garantisce un po' meno i doveri, e sarebbe ora che almeno una volta all'anno ci pensassimo. E quindi beati i fioretti che facevamo a maggio, se vi ricordate, sì. Fioretto al giorno, oppure gli scout che fanno una buona azione al giorno. Ecco, io credo che... dimmi. Don Mazzi, senti, io leggevo sul profilo Facebook una nostra ascoltatrice e andava proprio nella direzione, in questa direzione. Perché invece che rinunciare a qualcosa, non fare qualcosa, ad esempio, decidere di andare in ospedale, ad aiutare una persona malata, imboccare un anziano. Ecco, ci sono differenze. Cioè, io posso oggi fare digiuno, ma inevitabile posso anche fare qualche cosa, cioè non sono sostituto, non uno vale l'altro, no? Sì, più che fare digiuno, per esempio, potrei fumare di meno, e quindi quello potrebbe essere anche un fare, non è un non fare. Fare da più intelligente, oppure addirittura non telefonare, o telefonare ad un amico, per esempio, in questo momento, in questi giorni, potrebbe anche essere, anziché telefonare, usare il telefonino per i nostri capricci. Potremmo in qualche maniera chiamare qualche amico che sta male, qualche famiglia di parenti che da molto tempo non chiamiamo. Per esempio, se oggi riuscissimo a mandare un saluto di augurio a della gente antipatica, a della gente che ci rompe, e forse ad alcuni parenti che da anni che non ascoltiamo e che non vediamo, potrebbe essere una grandissima azione, o no? Io credo di sì. Grazie Don Mazzi per questo suggerimento. Ciao, un abbraccio. Fatelo. Ciao anche a te. Ciao. Grazie. Intanto saluto il dottor Carlo Gargiulo, medico di famiglia, che è in linea con noi. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno ai nostri ascoltatori. Lei fa qualche fioretto, dottor Gargiulo? Ma direi che qualche sacrificio, ma soprattutto qualcosa. Mi piace molto questa idea del fare qualcosa per gli altri, perché poi è magari rinunciare a una mezz'ora nostra per darla e donarla a qualcuno. È molto bello questo discorso, perché il discorso del volontariato, e in medicina il volontariato è fondamentale. Quindi direi invitare i nostri ascoltatori, sì, più a fare qualcosa per gli altri che a rinunciare E magari il discorso di Tommasi sul fumo mi trova completamente d'accordo, anche quella è una bella cosa, no? Perché se poi si sta un'ora in ospedale a fare volontariato non si può fumare, meglio così. 800 24 00 24, in questa puntata potete intervenire per raccontarci che cosa non fate o che cosa avete deciso di fare oggi o in alcuni momenti particolari della vostra vita. Possiamo decidere, come diceva Don Mazzi, di chiamare un amico, possiamo decidere oggi di provare a fumare un po' di meno, ma dottor Gargiulo, i nostri nonni, i genitori sono stati cresciuti con molte rinunce che ruotavano intorno al cibo, soprattutto in questo periodo di Quaresima, il divieto di mangiare carne nelle giornate del venerdì. Questo principio oggi vale molto meno, anzi dei più è disatteso, ma magari nascondeva, mi chiedo, qualcosa di importante non solo per la nostra vita spirituale, ma anche per la nostra salute. Da medico, lei ha una base, mi faccia mettere le virgolette, scientifica per spiegare il vantaggio che l'organismo potrebbe trarre da questo tipo di rinunce? Ma sicuramente sì, intanto diciamo che questo tipo di rinunce prima di tutto era legato a una certa visione del cibo che noi non abbiamo più, che era quasi più una gratificazione che una realtà. Oggi potrebbe funzionare molto bene, ecco, rinunciare una volta alla carne, agli alimenti di origine animale come le carni, potrebbe essere utile per il colesterolo, quindi potrebbe far bene. Ancora una giornata di digiuno, avendo l'accortezza ovviamente di bere e magari di assumere anche della frutta o delle sostanze che possano portare liquidi all'organismo, ma io direi che non fa male a nessuno, tutt'altro, possiamo consigliarla a tutti quanti, tranne i nostri ragazzi, va bene, ma questo è da tenere presente, i bambini non devono farlo. Ma per gli adulti va benissimo, è un qualcosa che purifica, che toglie un po' di sostanze in più e ci aiuta anche a mantenere la linea. Alice ci chiama dalla provincia di Pordenone. Alice, buongiorno, benvenuta. 800 24 00 24 per intervenire nella nostra trasmissione. Alice, eccomi. Buongiorno, buongiorno. Complimenti per la trasmissione. Grazie, Alice. L'ascolto sempre con piacere anche in podcast. Ah, mi fa molto piacere. Ci racconti, Alice, che rinuncia o fa? Allora, solitamente ero del partito della rinuncia, diciamo che sacrificavo un alimento sempre molto gradito, il cioccolato, e certo rinunciare per 40 giorni è veramente dura. Quest'anno, sulla scia di un'iniziativa che è stata promossa dalla parrocchia di Pordenone ancora durante il periodo natalizio, invece abbiamo scelto io e mio marito di portare avanti un'iniziativa appunto dal periodo natalizio e tuttora in corso, un'iniziativa di solidarietà promossa appunto dalla parrocchia, consistente nel lasciare delle borse spesa a titolo anonimo all'interno di un abside della chiesa di San Marco, che vengono messe a disposizione a famiglie bisognose che vogliono restare nell'anonimato. Una sorta di dono che mantiene un rapporto costante con i bisognosi attraverso nella segretezza dell'anonimato e che però insomma ci tiene in contatto ideale con questo atto diciamo volontaristico anche nel corso dell'anno, ed è bello perché ogni settimana nel mio carrello c'è sempre una borsa in più. Ma questa mi piace molto, come sta andando questa iniziativa? Sta andando bene perché la cesta appunto da Natale continua a essere presente, il parroco ringrazia, diciamo da parte nostra c'è anche una piccola soddisfazione nel vedere che molto spesso al di fuori dei periodi insomma un po' più sentiti, la nostra borsa è tra le uniche presenti, se non l'unica di settimana in settimana, quindi confidiamo anche che possa essere una cosa gradita, apprezzata e comunque insomma... Speriamo che sia contagiosa, dottor Gargiulo. Beh sì, speriamo sì che sia contagiosa, perché questa idea di donare in modo anonimo, tra l'altro è parte proprio della nostra cultura. Un piccolo aneddoto per tutti, a Napoli esiste quella bellissima usanza che è il sospeso, lasciare un caffè sospeso, cioè un caffè donato a un anonimo bisognoso che magari passa dopo al bar e lo prende, così come, quindi già un'idea di dare qualcosa senza far vedere che diamo. E poi, scusate il fiatone ma camminavo di corsa. Perché fa il suo regolare la sua regolare attività fisica, dottor Gargiulo. No, lei predica bene e razzola bene. No, perché faccio le mie visite anche. in questa fascia oraria. E quindi dicevo, ad esempio, invece mi piaceva questo discorso che faceva la signora della cioccolata. Ecco, se noi facessimo una rinuncia alla cioccolata per quei 40 giorni, che è molto positiva, ma quella cioccolata a cui rinunciamo la doniamo a qualcuno, è ancora meglio, no? Ancora più piacevole. Alice, complimenti. Grazie per essere intervenuta, ma io volevo salutare il professor Ciro Vestita, che è in linea con noi. Buongiorno. Buongiorno. Medico dietologo all'Università di Pisa. Professor Vestita, questo è un periodo in cui facciamo un po' di fioretti, facciamo delle rinunce, ma lo sappiamo, Pasqua cade anche in una stagione, la primavera, in cui tutti noi abbiamo bisogno di un po' di rinunce, un po' di sottrazione anche nella nostra dieta, e abbiamo bisogno anche di ricaricarci. In fondo un po' il digiuno è questo, fare pulizie e ritrovare un po' poi energie. Naturalmente parliamo di non di un digiuno estremo, ma professore, volevo sapere da lei se ci può dare qualche indicazione per questo, soddisfare questa voglia di depurarsi, ma di riacquistare anche quelle energie che ci permettono di affrontare la stagione. Guardi, c'è un lavoro molto interessante che è stato fatto su un gruppo di mormoni in America, mi pare che l'abbia fatto all'Università dell'Ohio, il quale ha dimostrato questo. Questi religiosi hanno per abitudine di fare il digiuno una volta al mese. Loro una volta al mese bevono solo e soltanto acqua. È quello che facevano i miei nonni, non per motivi religiosi, ma perché non c'era niente da mangiare, lo facevano una volta alla settimana. Detto questo, per i mormoni è stato dimostrato che l'incidenza delle malattie cardiovascolari si abbatte del 35%. Questo è un lavoro facilmente reperibile anche su internet, è molto interessante. Cosa vuol dire? Che se noi una volta al mese mettiamo a riposo con dell'acqua tiepida, bevendo acqua 2 litri al giorno senza mangiare altro, beh, ci sono questi studi che depongono ovviamente a favore di ciò. Attenzione però, bisogna che la persona sia in buona salute, cioè non lo può fare certo un diabetico, non lo può fare un insufficiente renale o un malato, però se ogni tanto noi abbandoniamo i cibi, beh, mettiamo a riposo fegato, reni e intestino, questo è ovvio, faccio un check-up alla nostra macchina. Lei, professore, mi parla di acqua, ma ci sono anche delle erbe che aiutano comunque il nostro organismo. È meravigliosa, guardi, che è a disposizione di tutti ed è l'unica a non avere veramente nessun effetto collaterale, che è la malva. Tutte le malvacee adesso sono in fioritura, hanno questi fiori color taxi irlandese, fra parentesi. Bene, questa malva, che poi è parente del carcadè, è qualcosa di fantastico, è talmente ricca di mucillagine, di sostanze antinfiammatorie, ma anche di potassio, di calcio, di magnesio, che bere, ad esempio, giustamente a posto dell'acqua 2 litri di infuso di malva vuol dire veramente innanzitutto urinare di più, perché la malva è diuretica, ma poi far produrre più bile, quindi c'è una secrezione maggiore di bile, c'è un'attività coleretica e anche una spremitura maggiore a livello della cistifellea, c'è un'attività golagoga, e quindi uno si ritrova veramente dopo un giorno di digiuno fatto con malva, in questo caso come giustamente dice lei, e non con acqua e basta, con delle qualità in più. Ci sentiamo, la cosa che prima di tutti accade è che ci sentiamo molto più sgonfi e molto più in forma, questa è la realtà. Professor Vestita, io la ringrazio per essere stato con noi. Mi scrivono già alcuni ascoltatori che da quando lei ci ha raccomandato la centrifugata il centrifugato di cavolo stanno andando benissimo, lo ricordiamo? Guardi, insomma, io d'altro canto ho scoperto l'acqua calda, tenga conto che i cavoli sono stati la panacea per tutte le patologie fino all'avvento della penicillina. Io mi ricordo addirittura mio nonno era medico di campagna, quando praticamente quando andavi in campagna c'erano delle ferite, ad esempio da taglio, gente che si tagliava con le forbici mentre potava l'uva, non c'era ovviamente acqua corrente, non c'era nulla, c'era una miseria inimmaginabile, lui prendeva questi cavoli, detergeva la ferita con le foglie di cavolo e poi col succo stropicciato le disinfettava e stavano meglio. Ora l'American Cancer Association lo mette al primo posto fra gli alimenti antitumorali, quindi abbiamo scoperto l'acqua calda e ne siamo ben felici, quindi centrifugato di cavolo a tutti, anziani compresi, può fare solo e soltanto bene. E oggi aggiungiamo anche come consiglio la malva, malva, il carcadè de noi altri. Ma tenga conto, se c'è ancora un secondo, perché il carcadè, certo. Hanno fatto uno studio bellissimo sul carcadè, ed è questa credo l'Università di Stoccolma, ha dimostrato che bere un infuso di carcadè 3 volte al giorno abbassa la pressione arteriosa di 4-5 punti. Il carcadè è una malvacea anch'essa, quindi senza andare a cercare piante tropicali, prendiamo della malva, ce la beviamo, ed è l'unica pianta praticamente che non ha effetti collaterali, può essere bevuta tranquillamente anche in gravidanza ad esempio, quindi è una pianta bellissima. E questo soprattutto a costo zero, perché la malva si può raccogliere nei campi e non ha assolutamente alcuna spesa per noi. Questo è sicuramente un vantaggio in più. Professor Vestita, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, a presto. Buona giornata. Grazie. Dottor Gargiulo, stiamo parlando di digiuno e molti ascoltatori mi chiedono come lei pensa, come lo colloca il digiuno, se ci sono poi dei rischi per la salute. Allora, stiamo parlando di un digiuno limitato, non 3 giorni di digiuno come mi suggerisce Silvio. Assolutamente. Mettiamo un no. po' i puntini sulle i. Allora, come diceva il professor Vestita, intanto parliamo di soggetti sani, cioè soggetti che non abbiano problemi da un punto di vista renale, da un punto di vista epatico, quindi malattie di fegato, che non abbiano patologie croniche come il diabete o che non siano cardiopatici. Questi soggetti che hanno bisogno di nutrizioni particolari li escludiamo. Per tutti gli altri, il giorno di digiuno singolo, fatto una volta alla settimana, una volta ogni 15 giorni, può essere di particolare aiuto, perché effettivamente assumendo molta acqua si facilita la diuresi, non assumendo sostanze che impegnano il nostro organismo riusciamo a gestire tranquillamente magari un accumulo, un sovraccumulo che abbiamo fatto nei giorni precedenti e quindi possiamo depurare l'organismo. Bisogna anche stare attenti, e quindi è sconsigliato il digiuno anche a chi soffre di stomaco, perché chi ha una gastrite, chi ha problemi di ipersecrezioni per acidità gastrica non può stare senza mangiare, perché ovviamente ha bisogno di mettere qualcosa nello stomaco per assorbire un pochino questa acidità gastrica. Dottor Gargiulo, mi è molto piaciuto che lei ci abbia suggerito, prendendo spunto dalla telefonata di Alice, di fare una rinuncia ma poi di donarla agli altri. Ad esempio, ci togliamo il cioccolato, però questo cioccolato, se non il cioccolato, i soldi che avremo utilizzato per comprare il cioccolato li diamo ad altri. Ecco, il darsi agli altri è sicuramente una medicina fantastica. Le ricerche lo dimostrano, e l'altruismo allunga la vita. In linea con noi abbiamo Donato dalla provincia di Bari, non so se sia d'accordo. Buongiorno Donato. Sì, buongiorno. Buongiorno. Sono d'accordissimo. Ah, bene. Anche perché la ricerca, come tu dicevi prima, ha dimostrato che nel momento in cui io do qualcosa agli altri, agisco in modo altruistico, nel mio cervello soddisfo, diciamo, determinate esigenze che soddisfo anche quando mangio la cioccolata o quando faccio l'amore. Quindi donare significa mangiare cioccolata anche o fare l'amore. Quindi è un atto, diciamo, altruistico, però possiamo anche definirlo di un egoismo altruistico. Sì, un egoismo sottile, Donato, perché ci fa bene. Dottor Gargiulo, lei è d'accordo? Direi di sì. L'unica cosa che vorrei un po' sottolineare, non cerchiamo di sostituire sempre il fare l'amore col donarsi agli altri, sennò qui rischiamo la nostra specie. Questo. Dottor Gargiulo, lei tocca un tasto un po' dolente, perché ci sono dei dati che dicono che insomma si fa sempre meno l'amore. Angela, dalla provincia di Piacenza, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Dal tanto digiuno fare l'amore. Siamo passati. Complimenti per la trasmissione. Signor Nicoletti, io l'ascolto sempre, veramente una donna in gambissima, anche tutti i suoi ospiti, sempre è validissima, complimenti. Grazie. Io volevo dire qualche cosina velocemente, perché ho sentito che hanno già risposto in tanti, no? Però volevo dire, ecco, io ho già una certa età, no? Ho vissuto un'infanzia dove avevamo poche cose, e allora il fioretto di rinunciare a una caramella, cioccolato ce n'era pochissimo, no? Magari rinunciare a qualcosa di cibo, no? Sì. Era molto importante. Adesso invece alla mia età ho cambiato direzione, no, del mio digiuno, cioè proprio pensando a qualcosa, a un digiuno più che ci lascia un po' ragionare con la nostra testa, con il nostro cuore, no? Noi siamo bombardate sempre, televisione, radio, con tutto il rispetto, che sono utili, però ecco, non abbiamo più il tempo di pensare con la nostra testa e col nostro cuore. Allora io dico, se noi facessimo un po', almeno io cerco di farlo qualche volta, no? Non ci riesco sempre, però proprio anche, non so, raccoglierci un po' in silenzio e ascoltarci tutte le cose buone che abbiamo dentro di noi e che poi a nostra volta la possiamo riversare sugli altri, perché che bello, no? Invece possiamo anche mangiare un cioccolatino, secondo me, però se ascoltiamo la nostra vicina, che magari non la vediamo mai perché è da sola, perché ha bisogno, anche un sorriso quando siamo in fila ai supermercati, tutti di corsa, passa tu, passa, ecco, tutte queste piccole cose che fanno bene alla vita e alla nostra esistenza, secondo me. Grazie Angela. E anche come testimonianza ai nostri giovani, perché noi parliamo sempre dei giovani, che però noi adulti, perché io ho l'età di una nonna, già una nonna avanti, però ecco, noi che testimonianze di amore, di pazienza soprattutto, no? Ecco, secondo me questa è la gioia più bella, il digiuno più bello, e le auguro tanta Pasqua. Grazie. Buona Pasqua a lei e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Grazie allora da nonna Angela. Il dottor Gargiulo rimane con noi, continueremo con numerosi ospiti, voi raccontateci la vostra rinuncia, il vostro fioretto, quello che proprio magari che facevate da bambini, che vi costava fatica, che ricordate con tenerezza, che cosa pensate di rinunciare oggi. 800 24 0024. Facciamo una breve pausa e poi torniamo insieme. Essere e benessere. Aggiungere o togliere. Siamo tornati insieme e oggi parliamo di fioretti, di rinunce, insieme al dottor Carlo Gargiulo e a tanti ospiti che ci stanno venendo a trovare, insieme alle vostre telefonate 800 24 0024. Dottor Gargiulo, se c'è un sacrificio che nasconde dietro la grande fatica anche numerosi benefici per il corpo, quel sacrificio si chiama pellegrinaggio, è sempre mediato dalla tradizione religiosa, ha sempre più adepti, ci sono numeri crescenti di persone che per devozione ma anche per curiosità lo scelgono e lo vivono. Io penso al Cammino di Santiago. Dottor Gargiulo, ma come ci si prepara ad un sacrificio di questo tipo? Ma intanto è un sacrificio che impegna il nostro fisico, il nostro corpo, e quindi occorre una preparazione come se dovessimo affrontare una performance sportiva tranquillamente, quindi allenarsi a camminare non a passo svelto, perché il pellegrinaggio di solito comporta un cammino a passo lento, misurato, però allenarsi a camminare con distanze che devono essere sempre più lunghe, in maniera che poi possiamo arrivare a iniziare. Lei parlava del Cammino di Compostela, che è un percorso particolarmente lungo e impegnativo. Per arrivare a quel percorso bisogna riuscire a poter fare tranquillamente alcuni chilometri al giorno senza faticare l'organismo, quindi camminando a passo lento, ed arrivare con una preparazione dei nostri muscoli e del nostro apparato respiratorio che ci consenta di fare questi percorsi anche lunghi senza sacrificio. Non è giusto senza sacrificio, diciamo senza sforzare l'organismo e quindi senza rischio. Francesca ci chiama da Roma, 800 24 0024. Buongiorno Francesca, benvenuta. Buongiorno, grazie di avermi richiamato. Ecco, volevo dire un po' le mie sensazioni. Sì. Io faccio una volta a settimana, pratico il venerdì il digiuno, cerco ecco l'acqua e al massimo latte e frutta. Sì. Questo mi fa molto bene, perché io sono golosa, io lo faccio per un senso religioso, per un fioretto, però allo stesso tempo mi sento che mi fa molto bene al fisico e mi aiuta, perché altrimenti ingrasserei, perché sono abbastanza di appetito. Concilio ecco il mio senso del religioso con una cosa che mi fa molto bene. E si trova bene Francesca? Mi trovo benissimo, sì. Dottor Gargiulo, mi trovo appagata sia diciamo come mi sento, e anche perché lo faccio per la mia fede, ecco. Dottor Gargiulo. Ma direi che va bene senz'altro, l'unica cosa, io eviterei il latte, non dimentichiamoci che il latte è un prodotto che può richiamare i succhi gastrici e quindi potrebbe peggiorare un disturbo allo stomaco. Va benissimo la frutta, meglio ancora delle porzioncine di verdura lessata, e allora se vogliamo fare il sacrificio senza condimento, perché deve capire, cioè deve donare qualcosa il sacrificio, e non è solo il sacrificio faccio la parte di Don Mazzi adesso, ma non è solo il sacrificio fatto a scopo di dimagrimento, perché il sacrificio deve essere una rinuncia vera e propria, che poi abbia un effetto positivo e va bene, però che la rinuncia sia fatta per la rinuncia in sé, e quindi togliamo anche il latte. Dottor Gargiulo, spostiamoci dal periodo della Quaresima, mi scrive Katia, ma per delle persone che vogliono mantenere il peso o vogliono dimagrire un po', potrebbe essere utile fare un giorno alla settimana di dieta molto controllata, quasi digiuno, e poi avere un'alimentazione, anche se controllata, un po' più libera durante il resto della settimana? No, direi che non è corretto. Non le piace questa idea? No, non mi piace. Non mi piace perché in realtà l'alimentazione deve essere controllata tutta la settimana. E se a questa alimentazione controllata aggiungiamo un giorno in cui riduciamo ulteriormente, perché togliamo magari le proteine animali, togliamo gli zuccheri semplici, togliamo soprattutto quello che è dolce, in più rispetto a una dieta controllata, allora possiamo ottenere un ottimo risultato. Ovviamente bisogna tener conto di una cosa: il giorno di digiuno non può che essere una volta alla settimana, perché di più rischierebbe di farci perdere peso, ma di farci perdere i tessuti importanti, i muscoli, il cervello, tutti quei tessuti che invece servono, e il grasso rimarrebbe lì. Il giorno dopo mangiamo e addirittura aumenta il grasso a scapito dei muscoli, quindi sarebbe un errore gravissimo. Facciamo un autogol, insomma. Esatto. Voglio salutare la dottoressa Trinci, finalmente con noi, psicoterapeuta dell'età evolutiva, buongiorno. Buongiorno a tutti e buona Pasqua. Io vorrei capire qual è la sua posizione nei confronti di fioretti, rinunce. Abbiamo pensato di togliere, ma molti ascoltatori, il dottor Gargiulo diceva, sì, si può anche aggiungere anche Don Mazzi, no? Invece che magari uno non mangia la cioccolata e va a trovare l'amico, tira sul telefono e fa gli auguri a quel collega che te ne ha fatte di ogni. Dottoressa Trinci, ognuno deve trovare un po' la sua formula. Ma sì, io credo di sì, per esempio, nell'idea del fioretto c'è implicita appunto l'idea della rinuncia, ma per se stesso. Ecco, io questo lo vedo un po' nei confronti dei bambini, a parte che oggigiorno bambini che fanno fioretti non ce ne sono veramente più. Rarissimi, sono una specie in estinzione. Però una cosa che non mi piace tanto, diciamo, è il fatto che appunto io faccio un fioretto per poter ottenere un risultato personale. Io credo che nei bambini bisognerebbe sollecitare la rinuncia, ma a favore degli altri. Per esempio, hanno delle case piene di giocattoli, sì. Addirittura alcuni giocattoli non vengono mai nemmeno usati, allora perché non utilizzare questi momenti così più di religiosità, e credo un senso lato, proprio un senso ampio di religiosità, per portare i giocattoli a una scuola materna, a un centro d'accoglienza, no? Allora in questo modo qui il bambino rinuncia a una cosa sua a favore degli altri. Oppure quando i bambini fanno queste cose meravigliose come scout e vanno a giro per la città vendendo le colombine a favore della ricerca sulla sclerosi multipla o cose di questo genere, cioè è un modo di dare, di rinunciare a dei divertimenti, a un momento in cui potrebbero andare a fare dei giochi e invece stanno facendo qualcosa per gli altri. Questo mi sembra che questa cosa possiamo farla, vale un po' per tutte le età, dottoressa Trinci, no? Anche adesso, anche noi adulti abbiamo la casa piena di giochi, ecco quindi, ecco, certo. Che sono abiti, che sono suppellettili, che sono le cose, sempre le cose in più. Marco ci chiama da Latina, buongiorno. Buongiorno, salve. Rinuncia? Sì. Come si pone lei nei confronti del Cammino di Santiago? Ah, bene. Ho fatto il Cammino di Santiago qualche anno fa, è stata un'esperienza unica. A proposito di sacrificio e di quello che poi era il tema della trasmissione, volevo dire brevemente, senza togliere troppo tempo agli esperti, che è stata veramente un'esperienza particolare. Io l'ho iniziato più per curiosità. Sono 990 chilometri, tutto il nord della Spagna, sono partito dai Pirenei fino ad arrivare oltre Santiago sul mare, a Finisterra, dove all'epoca si credeva finisse la terra. Sì. E lungo questo percorso ho incontrato molte persone che facevano questo cammino per sacrificio, per portare un qualcosa, per spirito proprio sottile, ecco. Ho incontrato una bambina che ha 8 anni, italiana, col papà faceva questo cammino perché doveva dimenticare un fatto brutto, persone con il tumore che facevano il cammino, perché è veramente ridotta, è un qualcosa che a me ha cambiato la vita personalmente, è stata un'esperienza molto bella. Marco, la rifarà? La citata. No, grazie Marco, perché è un'esperienza che insomma che io sto accarezzando e devo dire che incuriosisce anche molti dei nostri ascoltatori, quindi io la ringrazio per la sua testimonianza. Lei pensa che ci tornerà? Io sicuramente ci tornerò prima o poi, e soprattutto una cosa, il cammino è bello perché ti fa incontrare te stesso prima di tutto, e poi tutto un mondo di persone e di individui. E un'ultima cosa, come diceva San Francesco che ha fatto quel cammino, incontri lì la provvidenza, cioè lì ti rendi conto che c'è qualcuno che ti dà una mano, perché altrimenti non ce la faresti. E lo credo. In certi momenti specialmente di stanchezza o di... Io per esempio mi sono perso, sembrava veramente tragica e invece è arrivato un qualcosa che ti fa pensare che non sei solo, che qualcuno ti assiste. E quindi ecco, è stato particolare. Comunque lo possono fare tutti, perché ho visto un signore di 80 anni che lo faceva con molta calma, ma lo faceva. Grazie Marco. No, grazie Marco. Dottor Gargiulo, dottoressa Stavo Trinci. Di sapere quanto tempo ci ha messo a farlo, ero curiosissimo. Io ho impiegato 28 giorni con una media di 40-45 km al giorno. No, complimenti. E Marco, però lei è partito allenato. Io, guardi, non vorrei sfatare il mito, anzi è bene, io credo quello che ha detto il medico di allenarsi, ma personalmente io l'ho presa un po' così, sono giovane quindi non mi sono allenato facendolo, cioè ho iniziato con un po' di calma, senza strafare, e poi lungo il percorso ecco poi ho dato un po' più, ecco. Quindi però ecco, è consigliabile sicuramente esercitarsi molto prima anche, però io sono partito un po' così e molti anche partono così, poi dipende ecco da come lo si prende il cammino, perché ci sono determinate tappe, si possono scegliere tappe più impegnative o tappe più leggere. Grazie Marco, grazie davvero per essere intervenuto. Dottoressa Trinci, io vorrei sapere a lei come psicologa dell'età evolutiva, ecco, il cammino è proprio un po' una metafora della vita, no? Ecco. Sì, infatti a me piace molto quello che ha detto il radioascoltatore un poco fa, no? Cioè quello di avere l'impressione che qualcuno ti dà una mano, e penso che proprio nel contesto sociale di oggi, così narcisista, no? Così preso ognuno dalle proprie cose, sia veramente molto bello l'idea che per la strada si possano incontrare delle persone, bambini, io mi riferisco perché è un po' il mio modo di vivere quotidiano, ma anche adulti che ti danno una mano gratuitamente. E sottolineerei come sia importante abituare i ragazzini a provare piacere nel fare questo, cioè non devono essere atti di carità pelosa, devono essere atti dove c'è la gioia. Il ragazzo, il giovane che stava parlando prima, dava veramente l'impressione di aver trovato, no? Nella strada, nel cammino, di aver trovato l'altro. Io credo che questo sia uno dei più grandi risultati di un percorso educativo per tutti noi, riuscire a imprimere nei giovani quest'idea che l'altro non è qualcosa che fa paura, ma è qualcosa che arricchisce, che ti dà una mano. Io riutilizzerei questa frase, che poi può diventare una metafora, no? Che ti dà una mano. Dottoressa Trinci, grazie, anche lei ci ha dato una mano con il suo intervento, perché ci ha aiutato a riflettere. Intanto la ringrazio e ci sentiamo presto, buonissima giornata. Grazie a voi tutti, buongiorno. Buongiorno a lei. Massimo da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie Massimo, mi dica. Volevo chiedere al dottor Gargiulo, io soprattutto durante il periodo primaverile estivo faccio una volta al mese digiuno. Diventa un po' più difficile d'inverno, non so perché, comunque. Più di primavera ed estate. Volevo chiedere, durante poi la giornata di digiuno dove io bevo tanta acqua, integro con acqua e miele, perché ho dei cari di zuccheri. Volevo sapere se era corretto. Ecco, io ringrazio Massimo per questa telefonata, perché mi dà modo di puntualizzare un qualche cosa. Adesso lo faremo dopo le informazioni sul traffico, perché alcuni ascoltatori mi dicono: ma come, abbiamo sentito un altro suo esperto che diceva no al digiuno. Allora, c'è digiuno e digiuno, dottor Gargiulo. Torneremo su questo aspetto tra poco, dopo le informazioni sul traffico. E intanto pensate a provare a vedervi, a immaginarvi in una giornata senza cellulare. Io già sto male. 800 24 00 24. Anche questa è una rinuncia, ne parleremo. Essere e benessere. Dottor Gargiulo, eccoci qua. Allora, questo benedetto digiuno, mettiamolo, allora, facciamo tutti i chiarimenti, perché sennò sembra che digiuno sì, digiuno no, allora che cosa faccio? No, mettiamo tutti i chiarimenti. Il digiuno, lo sappiamo tutti, è una pratica estremamente a rischio quando viene ripetuta per più giorni consecutivi. Una giornata di digiuno, abbiamo parlato di una volta al mese, una volta ogni 15 giorni, una volta a settimana in soggetti che siano magari in sovrappeso, è accettabile tranquillamente purché rispettiamo quelle regole che dicevo. Niente deve riguardare soggetti sani, quindi niente persone che abbiano patologie croniche di qualsiasi natura, deve riguardare soggetti che non abbiano problemi gastrici perché lo stomaco ne può risentire, e deve essere un digiuno intelligente, cioè un digiuno dove c'è l'acqua sicuramente, quindi bisogna bere per mantenere idratato l'organismo, e assumere eventualmente degli alimenti, frutta o verdura, sconditi, quindi senza l'apporto di grassi, che possano consentire al nostro stomaco di riempirsi e contemporaneamente evitare che i succhi gastrici possano danneggiare la parete dello stomaco. Questo è accettabilissimo, si può fare tranquillamente le 12-18 ore, perché poi tanto c'è il digiuno notturno di 8 ore, almeno lo facciamo normalmente, non succede assolutamente niente, quindi possiamo stare proprio tranquilli. Però bisogna, vi ripeto, stare molto attenti, perché evitate di pesarvi prima e dopo il digiuno, perché il peso che voi perdete con il digiuno, che è normale che si perda, non continua così, ma potrebbe invogliarvi a proseguire il digiuno. Questo è un rischio gravissimo. Massimo devono essere 24 ore e non più di una volta a settimana. Dottor Gargiulo, a proposito del nostro ascoltatore, dicevo dei cali di zucchero, bevo l'acqua con un po' di miele. Ecco, nel nostro ascoltatore che sente questi cali di zucchero, forse più che bere l'acqua col miele, che comporta poi un innalzamento brusco della glicemia e quindi il rischio anche magari di avere una iperincrezione di insulina che può creare dei problemi, forse nel suo caso assumere delle piccole quantità di alimenti, anche lì probabilmente frutta e verdura, durante la giornata di digiuno sarebbe più utile. Può essere che lui abbia un'attività pancreatica molto attiva, quindi va incontro all'abbassamento della glicemia. In questo caso forse il digiuno stretto non è indicatissimo. Vi avevo chiesto di pensare che cosa sarebbe la nostra giornata senza il cellulare, senza internet, il computer, la musica, delle cuffiette. Voi ce la fareste? Io devo dire che senza cellulare farei molta fatica. E allora mi affido al dottor Federico Tognoni. Buongiorno dottore. Buongiorno. Psichiatra e coordinatore dell'ambulatorio dedicato alla dipendenza da internet presso il Policlinico Gemelli di Roma, e sta per uscire il suo libro Quando internet diventa una droga, Einaudi. Sì. Dottor Tognoni, come fa? Io già lo so che sono un po' cellulare dipendente, ma come faccio? Come si fa a capire se il cellulare è entrato troppo prepotentemente nella nostra vita? Ma questo è assodato ormai, in realtà poi è cambiato un po' tutto, è cambiato il nostro modo di comunicare, sta cambiando il nostro modo di pensare, e stanno cambiando le variabili spazio-temporali di come noi vediamo il mondo e la realtà, e questo non è necessariamente un problema, fa parte dell'evoluzione mentale, della nostra, appunto, del nostro pensiero, del nostro essere umani. In certi casi invece può diventare una vera dipendenza patologica. D'altra parte il cellulare, come internet, come i social network, mediano proprio la relazione con l'altro, che è qualcosa a cui non possiamo rinunciare. Certo è che se poi questo diventa una sorta di controllo compulsivo su quello che fanno gli altri, allora siamo nell'ambito di una dipendenza patologica. E le domande quindi che uno si deve fare quali potrebbero essere? In che senso le domande? Nel senso di capire quanto, se uno è un po' borderline, insomma, rischia tra il fisiologico e il patologico. Ma è capitato anche a me di stare senza il cellulare, e il primo giorno sono stato molto a disagio. Il secondo giorno mi sono sentito come nascosto, che nessuno mi cercava. Il terzo giorno libero, ed ero molto felice, poi però mi hanno riattivato la connessione, per cui non... Quindi potremmo iniziare oggi o domani, abbiamo giusto 3 giorni, sabato, domenica, lunedì, e poi martedì ci rituffiamo. Diventa, nella misura in cui è una scelta spontanea, è una cosa assolutamente positiva. Quello che invece bisogna evitare, ci tengo a sottolinearlo, è di costringere qualcun altro a farlo, perché nel caso in cui siamo presenti di fronte a una dipendenza patologica, dobbiamo sempre ricordarci che le dipendenze patologiche mediano angosce più profonde, per cui costringere una persona a rinunciare alla sua dipendenza patologica improvvisamente e contro la sua forza di volontà può poi liberare angosce più profonde, per cui le cose vanno fatte con più cautela in quel caso. Un po' come il digiuno, come diceva il dottor Gargiulo. Dottor Gargiulo, questo è provare a togliere, no? Ad allontanarci da qualcosa che facciamo abitualmente, può anche essere uno strumento per valutare la nostra dipendenza. Mi spiego meglio. Molti di noi sono abituati a tornare a casa a prendere l'aperitivo con gli amici o a farsi, no? Il famoso happy hour. Più volte, no? Abbiamo anche in puntate dedicate all'alcol, abbiamo detto: ma quanto siete abituati, quanto vi piace, quanto invece siete dipendenti da questo. E così può capitare anche per il, oltre all'alcol, anche per il fumo, ne abbiamo parlato, internet e cellulare, insomma può essere un po' la cartina tornasole della nostra possibile dipendenza, dottor Gargiulo? Direi proprio di sì, cioè quello che bisogna valutare costantemente è la capacità di poter rinunciare all'aperitivo nel caso specifico, o alla sigaretta o al cioccolatino, cioè sapere che siamo ancora in grado di dire no di fronte a un qualcosa che ci aggrada, che ci dà soddisfazione, che ci piace. Questo significa mantenere il controllo su noi stessi, quindi mantenere un controllo particolarmente attivo, e allora possiamo dire a quel punto che non siamo dipendenti. Differentemente, se siamo in quella situazione, come fanno tanti miei pazienti che fumano, che mi dicono ma tanto io quando voglio posso smettere, e poi ovviamente non smettono mai, allora lì abbiamo una dipendenza vera e propria. Dottor Tognoni, abbiamo visto nei bambini adesso i fioretti sono sempre più difficili, ce lo confermava la dottoressa Trinci, ma i bambini, ne abbiamo dedicato tante puntate al rapporto che i bambini e i ragazzini hanno con internet, ci dà qualche indicazione veloce per impostare un po' un rapporto sereno con queste tecnologie che sicuramente aiutano, no? I ragazzi, si può, sì, su internet. Bisogna però assolutamente porsi, questo nel libro noi lo spieghiamo bene, bisogna assolutamente porsi un limite alle ore di connessione, perché al di là di quello che si fa su internet, un prolungamento delle ore di connessione, che nel caso delle persone che noi vediamo, degli adolescenti che noi vediamo, può arrivare anche a 16 ore al giorno, 16-18 ore al giorno, con compromissione delle performance scolastiche, sociali, eccetera, è un qualcosa che assolutamente va regolato, e non è assolutamente vero che i nostri figli, come poteva capitare negli anni 80, nell'era pre-digitale, se stanno in camera loro sono tranquilli, perché internet, oppure sono al sicuro più che tranquilli, perché internet è veramente come uscire di casa, e proporre un contenimento delle ore di connessione è proprio una cosa che i genitori, è un problema che i genitori si devono porre, compreso per esempio quello, ora la cosa più superficiale che mi viene in mente, se è il caso di fare i compiti con Facebook acceso. Queste sono domande che tanti genitori mi fanno, che è un po' come i nostri tempi quando provavamo a studiare in un prato, magari, no, in una villa circostante la nostra abitazione. Ecco, questo è fondamentale, porsi un po' il problema, la questione di tante ore attaccate al computer, perché prolungare una connessione significa predisporsi a una dissociazione. Lo vediamo tutti che davanti al computer, se navighiamo, chattiamo, giochiamo, dopo un pochino siamo assorti, non concentrati. Esattamente come nel sogno ad occhi aperti, solo che a differenza del sogno ad occhi aperti, una connessione non dura una manciata di secondi, ma può arrivare anche a 16 ore al giorno. In effetti il tempo corre veloce, e corre veloce anche il tempo qua a Essere Benessere, perché io devo salutarvi, quindi dottor Tognoni, dottor Gargiulo, grazie per essere stati con noi. Grazie Nicoletta, posso fare gli auguri a tutti gli ascoltatori, buona Pasqua. Oh, buona Pasqua anche al dottor Gargiulo, al dottor Tognoni, a voi. Io vi aspetto lunedì. Intanto raccontateci anche sul nostro profilo Facebook se avete fatto delle rinunce, se la trasmissione vi è piaciuta, insomma noi siamo qui, rimaniamo connessi. Buona giornata. Essere e benessere.